Wall Street, i viaggi del lupo. Ma buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Wolf Trips. Buonasera. Ci presentiamo velocemente. Io sono Domenico Biancardi, boss. The boss, sì, dai. L'artefice di questa. Sì, quello questo che fa i danni. Ecco. Che viaggia su ogni medio di frequenza, anche internet. Poi voi presentatevi anche voi. No, io mi sono presentato, quindi presentatevi anche voi. Prego. Ciao, sono Tony. E io sono la Chris. Bene, bene. E noi siamo in diretta sul nostro sito, sulla nostra pagina di Wolf Trips che trovate su Facebook. E poi in replica nell'etere. Nell'etere, ecco, mettiamola così. Seguite la pagina e sapete dove. Inoltre anche sui vari podcast. Okay. Il nostro programma tratterà un po' di musica, ormai è ormai la nuova puntata. Un mesetto. È un mesetto, no, di più, sono la nona puntata che facciamo quest'anno, insomma. La matematica. E tratteremo sempre della nostra amatissima musica delle Net Label. Che musica. Cosa sono? Ma no, ma velocemente, tanto ne abbiamo parlato molte volte. Ma chi però non ci ascolta la prima volta. Bravo, bravo. Andando al sodo della questione, è musica gratuita. Quindi prendete e divertitevi, fate quello che volete. Però prendetene e ascoltatene tutti. Ecco, lo sapevo. Lo sapevo che andavamo a finire lì. Però la musica che andiamo ad ascoltare in Wolf Trips noi proponiamo, ci facciamo un po' da guida, ecco, un po' da. Come potrebbe essere Virgilio, ecco, ho fatto che citazione. Virgilio.it. Da Virgilio.it. E facciamo praticamente una sorta di viaggio in vari generi, passando dal dub all'hip hop, poi al rap, poi passiamo magari andiamo un po' sul tamarro, techno, sulla qualcosa techno, di jazz. Dipende. Abbiamo fatto un po' di esperimenti e non sono andati a buon fine, vero Tony? Vabbè, che qualcuno se vuole sentirsi le vecchie puntate. Sì, ci sono degli esperimenti. Così potrebbe dire. È vero. Abbiamo un numero nuovo stasera. Certo. Il numero nuovo, bravo, per contattarci, bravissima. Per contattarci, se volete scriverci, mandarci audio, video, 340 136 17. Ripeti? 340 1003 617. Certo, non me lo ricorderò mai. Perfetto. Intanto io ho già fatto play su un prossimo pezzo, che è un pezzo dub della Dubphonic. Sai che questa la notizia che hanno parlato tutti. Cosa? Dell'UNESCO, del reg. Ma poi ne parliamo dopo. Okay. Thank you. stiamo ancora ascoltando il pezzo dei Dub Wings. Dub Wagons, dub, dub qualcosa, insomma. Da che parte arrivano? Loro sono... Non mi fare queste domande. mi cogli impreparato sull'argomento. Comunque, cioè, la notizia è che questa settimana, ieri hanno parlato tutti che il reggae è stato considerato come patrimonio dell'umanità. Dell'UNESCO. Sì, dell'UNESCO. Ma come mai questa cosa? No? Perché spiegami bene. È la musica che, diciamo, raggruppa di più le minoranze, cioè aiuta la gente a essere più buona, si parla di pace, amore, tutte queste cose qui. Dunque, dovrei ascoltarla anch'io allora. Beh, un po' l'hai ascoltata anche stasera, quindi. Sì, ma è una derivazione anche del dub. Ok, sì. Ok, intanto io stavo andando a cercare le informazioni e dovremmo anche esserci arrivati. No, non abbiamo informazioni su questo gruppo. Comunque, da domani in poi, allora io ascolto solo questa musica. Sì. Fatemi un elenco, mandatemi tutte le canzoni, così almeno. Ma io ti suggerisco una cosa diversa. Più buona. Guarda, io faccio un po' di massaggio promozionale, come si direbbe in TV. Se scarichi l'applicazione Spotify e cerchi Wolf Trips, puoi ascoltare tutte le nostre puntate, tra cui le prime canzoni del nostro programma. C'è sempre un po' di musica reggae, trip hop, sì. Quindi ci può sempre stare. Non so cosa state combinando. No, però. Perché noi abbiamo delle interferenze. Abbiamo tre telefoni, ma non si capisce chi fa. Io intanto devo salutare Katia che si è collegata, che voleva essere con noi stasera, ma purtroppo. Ah, è vero, stasera nessuno in fotografie. No, nessuno. Vabbè, stasera siamo così. Dai, non abbiamo fotografi. Alleluia! Non è... Salutiamo la Sabrina. Ciao, Sabri. Poi abbiamo il buon Fabio che è pronto con i suoi jingle. Eccomi qua. Ecco, che è pronto. Dimmi. No, ma io dicevo l'altro Fabio. L'altro Fabio non ci sarà questa sera. No. Mi ha detto che è un po' stanco, un po' conciato. Ma le sue serate con le sue amiche. Io ho postato quel video della DJ che non so, ha 80 anni, Roy in gamba, e credo che sia una delle sue amiche. Infatti. Poi salutiamo la Deborah che invece è catturata dal cellulare. Infatti, ti ho beccato. E pensa ecco che. Dove arrivano le sì, ma non ha ancora il telefonino nuovo perché l'ha comprato. Attenzione! Ancora, non è in scatolato. È impacchettato. Sì, no, devi comprare le cuve, queste cose qua. Giusto, bravo. Perché è la sicurezza prima di tutto. Proprio sparisce, ecco, dalla prossima. Sicuro. Però. Facciamolo sicuro. Va bene. E io direi che ci andiamo a ascoltare un prossimo brano e cambiamo un po' il genere. Dimmi tutto. Io volevo salutare anche Diego. Giusto, è vero. Che tra l'altro Tony ci ha fatto un jingle, Diego. Cioè io non lo sapevo, ha fatto un jingle con la sua voce. Davvero? Sì, ce l'ho qua sul telefonino. Adesso infatti dove, chiedo. Sulla radio? No, cioè, mi ha mandato un jingle che ha fatto lui di Wolf Trips sul telefonino. Dopo anche, il massimo te lo faccio anche sentire. Anche il nostro amico Fabietto ci ha fatto un jingle per la mia futura. No, che futuro? Adesso ne parliamo bene. Aia! Che futuro? Che dici? Andiamo, dimmi. Mi spiace Tony, ma adesso sono fattacci tuoi, adesso ci devi dar dentro. Giusto. Andiamo a ascoltare quindi il prossimo brano che passiamo un po' sul genere hip hop ed è il brano di Sole con Smoke Signal, quindi segnali di fumo. Oh yeah. Nuclear winner motherfucking 3. Bet you thought I was never gonna drop another one of these. I bet you thought capitalism was gonna end. The state was gonna wither away. And we were gonna wake up in a motherfucking utopia. Nah, it ain't working out that way, is it? So it's been about 7 years since I dropped another motherfucking mixtape. Thought it was time. Nuclear Winter 3, calling it interventions. This is a collection of tracks I made over the last six or seven years. Every time some fucked up shit was going on, I had to get it out. I made one of these tracks, released it, and then it never went anywhere. Made some new ones, some remixes, some shit with Pain 1, whatever. Check out this motherfucking mixtape. Only way to get it is to download it and give me your motherfucking email address, cause I can't fuck with no more social media. Only other thing I gotta say about this mixtape, it's got a Slavoj Žižek sample on it. I used to like his ideas, but fuck that dude right now. Little too friendly with the right wing. He made some stupid ass comments about horizontal politics that I can't fuck with. Other than that, buckle in, strap up, and get already. It's 2018, the year for self-defense, a year for rising the fuck up. Fuck Trump, fuck capitalism, fuck the state, fuck the jails, fuck the cops, fuck pollution, fuck global warming. Stasera siamo troppo precisi, mi sa. No? No, no, no, no, no. Pensa che questo brano non ha nessuna etichetta. Cioè, questo qua è un brano senza etichetta. L'hanno fatta così. No, però esce da una compilation che è la Nuclear Winter 3. Quindi è una cosa proprio esplosiva, no? Giusto per rimanere in tema molto... con quello che stavano dicendo prima. No, non so cosa sta succedendo. Che qualcuno che ci guardi sulla diretta Facebook vede facce strane e personaggi strani che si aggirano nello studio. No, perché c'è praticamente Fabio che sta preparando i jingle, ma non so cosa sta preparando. Perché c'è il cappello, il giubbino? Cioè, non è che fa così freddo qua dentro, Io sto girando proprio. Ah, vabbè, vabbè, vabbè. Poi magari dopo me lo tolgo, sicuramente, perché poi creperò di caldo e la vecchiaia. Vabbè, vabbè. Vabbè, visto che il brano di prima era molto corto, io direi che lanciamo subito. È anche molto cupo. Sì, però era. È Nuclear Winter. Sì, la collection era Nuclear Winter, quindi deve un po' anche entrare nella logica dell'album. Cioè, era una cosa più. Nucleare, un qualcosa invernale e nucleare, quindi guarda, più cupo e di così. Qualcuno c'ha anche gli effetti dell'inverno. Infatti, infatti. Andiamo col prossimo brano della Block Sonic, l'unico che metterò questa sera. No, dai, perché? No, perché stasera ho deciso di fare praticamente un brano per Net Label, quindi non avremo molte. Dunque, una media di quante canzoni? E vediamo, più o meno noi solitamente mettiamo sui 15-16 brani. 15 etichette diverse. No, perché poi avremo anche l'ospite, gli ospiti. Che dopo iniziamo a introdurre dal prossimo brano. Allora, il prossimo brano che è di Regenerated Head Piece, che abbiamo già ascoltato qualcosa, e vediamo se riesco a lanciarlo senza impappinarmi. Allora, è Cycloloop Monocycle. Sì, dai, ci sta. E il brano Cosa stai dicendo? Allora, Monocle. Ah, Monocle, hai ragione. Beh, io comunque vi consiglio poi di rileggere le playlist sul sito, perché forse è meglio. Questo è meglio che sia. Ed è il remix di Donny Ozone, che non ha un richiamo con qualcun altro. Questo però dovrebbe essere il tuo gradimento, Tony. Quotient infinity. I'm about to break it wide open. Endless range of motion. Poetic notion. Quotient infinity. Dope moment. Devotion to my liberty as an MC. On the microphone I get free vocally. Living. Life is metafiction. Challenging perceptions. Deflecting all questions. The next alleged legend. Yet nevertheless method when I roll with my brethren. R.H.P. Yes, we perform phenomenally. Like Muhammad Ali. You oughta quit bothering me. I'm a throwback before my time. The way I design rhymes in colorblind minds. Yes, I'm shred. Lexicon illa. Then Mecha Godzilla. Pressure's on killer. Stepping on quitters who mock the way I drop text. My complex vision built upon a convex mirror's optics from the onset. Grab the mic, examine life with forthright hype. Cast light through black night. New Trotskyite prototype, let's fight. That's right. We've nothing to lose but our chains till these lingering visions remain Sisyphus at last on the plane. Strange. We need a new myth these days. Mysterious ways arrange the age, but the changes are vague. So don't be afraid to disengage from the maze. Crazy and untrained is my phrase. Advanced main rants, enhance the stance of man. But dance now before chance unplugs the band. RHP phenomenal. Hurdling your obstacle. Unstoppable. Put you in your Cyclops monocle. RHP phenomenal. Hurdling your obstacle. Unstoppable. Put you in your Cyclops monocle. RHP phenomenal. Hurdling your obstacle. Unstoppable. Put you in your Cyclops monocle. I'm phonics, the distinguished linguist, armed with English, a militaristic fist and open-mindedness, making my consciousness feel bliss. Conformists will diss, cause they're inhibited by ignorance. Cause I'm original like fingerprints, they wanna slice off my fingertips. I linger like shit's not flushed, when I bust like bust out bras made to enhance cleavage. Regenerating headpieces like wildebeests feasting on grasslands with fast hands. I grab the 7 inches of steel. Heads think that I reinvented the wheel. Reveal I got specs like Xbox. to numb this like thumbs at the sunset in a sweatshop. Getting props cause our cyclops monocle is a third eye with an enhanced glass particle. A cranium carnivore, busting like tusks of carnivores, reeking of carnage. Making sausages from MC cartilage and always keep our heads underground like ostriches. And yeah, I'm agnostic, cause how could God let man take nature hostage? RHP phenomenal, hurtling your obstacle. Unstoppable, punch you in your cyclops monocle. RHP phenomenal, hurtling your obstacle. Unstoppable, punch you in your cyclops monocle. RHP phenomenal, hurtling your obstacle. Unstoppable, punch you in your cyclops monocle. Let me ask you a question, tell me, what would it mean to you? How would it seem to you if I would sing to you? If I would bring to you a style so original, considerable syllables rhymed at odd intervals. I'd be the guy that's always fucking bugging out, running around the underground, snuffing out the unprofound. Whack MC, you better shut your gutter mouth. Did shred lexicon, X-File and Fawn. X marks the spot that we're stepping on. Where we belong is inside the song, inside the depths where all becomes law. Inside the kinds of minds we strive for, define our times through rhymes and line drums. Art line walls surround the spy holes. Don't be foolish. For art, there ain't no blueprint. Leave elusive shoe prints to confuse the ruthless. Authors of this new world order, water touch a special offer. Free bricks to those who bring mortar. So try to deny me in the infinite. Legitimately ripping shit deliberately different. My portrait is significant. I hold a mirror up to life and pray for rain to wash away the night. The beauty that I create in truth is fleeting, ephemeral, sexual, secret. The lunatic shall have his moon. The dish shall have his spoon. Flow like lagoons after the monsoon. Immune to doom, headpiece tycoon. RHP phenomenal, hurdling your obstacle. Unstoppable, punch you in your cyclops monocle. RHP phenomenal, hurdling your obstacle. Questo come genere hip hop ti piaceva un po' di più? Eh sì, da school. Cosa volevi dire? A me sembrava, sai, tipo Fast and Furious. Sì. Sì, beh, le compilation, cioè le soundtrack sono molto belle. Vero. A detta degli altri, a me non è che mi piacciono molto. Mi piace. Comunque, sono andato a cercare un po' di informazioni su Donny Ozon. Se non è il tuo, tu stavi dicendo il tuo nome d'arte. No. Ti stava scappando. No, perché prima mi hai detto che l'ho detto un po' alla calabrese, Ozon. Allora, ho cercato di trattenermi un po'. E lui praticamente viene da Brooklyn. Quindi anche poi tra l'altro Brooklyn? Sì. Brooklyn con la M Brooklyn, ho detto. No. Che poi tra l'altro è anche registrato, quindi uno, ragazzi, volendo, si può andare anche a riascoltare. Corsi inglesi gratuiti, ecco. Contattate Domenico Biancardi. Vabbè, comunque in realtà volevo dire che Katia ha caricato una nuova stories su Instagram, quindi andate queste a vedere. Mi piacciono perché No, non ho il coraggio. Ecco. No, però, non essendo che sono qui a farci foto, magari non sono così scandalose. Vediamo cosa dice la Deborah che sta andando a guardare. Vedo che col suo nuovo cellulare. No, non con il non ancora nuovo cellulare. Ecco. Vabbè, cos'è, Tony, che dice Deborah? Aspetta, no, è lunga, perché questo qua è il cellulare vecchio, quindi ci mette un po' di più. Anche io ce l'ho gemello, dunque, sì, in effetti un po' così. Vabbè, oh, ci sta, cioè, la decadenza dopo due anni, mi sembra un po' troppo pochi. Ebbene sì, dopo due anni ormai... Ecco, vedo la Deborah che ride, quindi... Vabbè, adesso fuori onda vediamo che diamine di stories ha messo e vedremo poi dopo i nostri commenti. Ricordiamo l'indirizzo Wolf Trips. Sì, allora su Instagram, ecco. si chiama Wolf Trips LRLS. Ok. Così si chiama. Purtroppo era già occupato. Sì, ok. Sai, uno si deve sempre inventare qualche nome, qualcosa. Anch'io. Il mio è Sans Anthony, vabbè, lascia stare. Aggiungiamo tutti i Sans Anthony a Instagram. Sì, sì, domani incomincia anche l'avvento. Perché? Sai come si fa prima di Natale che si... il calendario dell'avvento che cos'è, stacchi, trovi te. Ci trovi te dentro tutti i Sans Anthony piccolini. No, io direi di fare un calendario dell'avvento di Wolf Trips. Aia, dove al contrario, però questa è brutta. No, dove praticamente ogni giorno ci siamo uno di noi in una posa diversa. È orribile questa cosa. Io direi che schiacciamo play sul prossimo brano, però non lo dico io, visto che vi siete lamentati del mio inglese. Vai. Allora, l'autore è D. Weebs. La canzone è Batch Watch. Aggiungo solo che è dell'etichetta Dead Records. sì, ma l'ho preso dalla... Cosa è stato preso da? A meno male che ti ho beccato, in castagna. Ti ho fatto lo scherzone, No, secondo me voleva far vedere e ascoltare i nostri telespettatori. Ascoltatori. Allegria, quello telespettatori. Quello che combiniamo fuori onda, Tony. Si potrebbe fare un'altra puntata, diciamo. Sicuro. Diciamo che i nostri viaggi sono appena iniziati e già sono belli mirabolanti questa sera. Ma che 2 ore dura. Esistiamo più che altro sopportarci, ecco, sì, microfonamente parlando, ecco. Il brano che abbiamo ascoltato era abbastanza corto, era più una promo, però era di un'etichetta che sta iniziando a piacermi, un genere un po' particolare alla fine. Che si chiama? L'etichetta si chiama Dead Records, con la Z. Ma il genere secondo me è Fusion, sì, un po' fusion. Un po' fuso? No, aveva una voce molto soul, effettivamente, come brano. Poi la costruzione ritmica era un po' molto cupa, però aveva anche qualche richiamo di altri generi, quindi per quello può essere fusion. Secondo me quella è un po' la definizione della musica, sì, fusion, sì, no? Ok. È un po' un misto, come quando vai al fusion a mangiare, no? È un mischione di tutti dentro tutto. Dimmi. Ma posso farti una domanda? Ma esistono ancora gli emo? Non lo so. Sì, penso di sì, ma non è più una cosa diffusa. Sì, l'emo l'emo esisteva già da molto prima. Sì, ok, che esista, ok, però non vedo più Sì, sono ritornati proprio nella normalità. Da dove dovevano stare? No. Sono tornati da... Questa no, è una tua critica. Sì, perché la musica mi piace, in realtà. Ecco, non mi piace la moda che si è andata a creare, in realtà non mi è mai piaciuta. Ma questo succede con tutti gli stili di musica. Sì. Dunque, adesso voglio sapere che cosa stai combinando. Niente, stavo giocando con un adattatore che è qua da settimane, da tempi immemori. Il prossimo brano devo annunciarlo. Te lo vuoi fregare, ecco, diciamo. No, era proprio impegnato, lo vedevi lì che era impegnato a giocare. Prossimo brano che vi propongo è dell'etichetta Dusted Walks, che è sempre la nostra, diciamo, etichetta preferite, amate. E tra l'altro faremo a fine anno questa sorta di classifica, le chiameremo le Net Label Awards, ecco, mettiamolo così. Il mega mix di Capodanno? No, non è il mega mix di Capodanno. Ciao Fabri. No, non è il mega mix di Capodanno, è la super, no, che era la mixatona. Fabri, la mixatona. La mixatona di Capodanno, un po' la Fantozzi. Sì. No, in realtà sono tipo, faremo una sorta di nomination delle Net Label in base un po' a quelle che abbiamo suonato di più, quindi sicuramente la Dusted Walk, cioè, è già lì, è sul podio. Sul podio. Quindi anche noi dovremmo fare le nostre nomination. Sì. Non so se ci contatterà. Se guardi dietro la radio lì c'è il mi sa che su c'è l'urna. No, c'è l'urna, c'è il confessionale. C'è il confessionale là dietro. Va bene. E l'artista si chiama Bugi Belgic. No, Boogie. Che diamine, ogni Boogie volta Belgique. Lo sbaglio. Che tra l'altro ho letto dal suo Facebook che uscirà un suo nuovo album, forse se non oggi, domani, però dipende poi dal fuso orario in quale vengono pubblicati questi annunci. Meno male che è in Belgio. No, in questo mi sembra che non sia completamente, cioè il nome del Belgio, ma non è diciamo che non è proprio del Belgio. Il brano si chiama All Over the World, e questa volta l'ho detto giusto, non mi puoi dire nulla, ed è un genere che se non so, poi dopo dimmi se ti piace, poi lo commentiamo dopo la pubblicità, però okay. Andiamo ad ascoltare quindi Boogie Belgique non mi resterà mai in testa. Kiss won't mean goodbye all over the world. goodbye all over the world. Then we'll have time for things like wedding rings, and free hearts will sing when the lights go on again all over the world. Trips, i viaggi del lupo. Preparatevi per un'ora di musica underground, solo su Radio Lupo Solitario. Torna il venerdì Wolf Trips. I viaggi del lupo. Il programma dedicato alla musica del futuro. Dalle 20 alle 22 preparatevi. Per due ore di musica underground. Sì, non siamo diventati matti, abbiamo passato questo brano, dimmi tu. Solo tu, di Mattia Bazar. Perché dovremmo avere in collegamento con noi un gruppo di ragazzi di Ornavasso. Ci siete? Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao ragazzi. Benvenuti. Buonasera. Su Wolf Trips. Noi siamo curiosissimi, guarda, di sapere qualcosa in più su quello che fate, su chi siete. Ma una domanda che ci sta, una cosa che ci stanno domandando: questo brano è originale o è qualche versione particolare? Questo brano è ovviamente originale di Bazar, che noi abbiamo rivisitato in versione sul viaggio delle batterie, delle parti. Ah, ok, ok. Cartiera, cose che ci divertiamo a fare, diciamo. Ma la voce è originale, sì, sì. Sì, sì, sì, assolutamente. Cioè, avete fatto un lavoro della Madonna. Ah, un bel lavoro, un bel lavoro. La Madonna. Vabbè, no, bene, il risultato è bello, il risultato è molto bello. Bene, voi quindi, io ho visto un po' dalla vostra pagina Facebook, suonate col vinile. Pensavamo, effettivamente, siete dei veri e propri DJ alla fine della fiera. Proprio il vero concetto del DJ, selezionate i dischi. Più che DJ ci piace definirci dei selezionatori. Ok, ok. Per quello che proponiamo, diciamo, nelle nostre serate danzanti, che è proprio difficile a livello di miscelazione tecnica passare da un genere all'altro, perché veramente proponiamo un po' di tutto. Che genere di musica proponete quindi? Ma noi siamo nati, cioè, l'idea era quella di proporre prevalentemente un qualcosa di italiano, tra virgolette, un po' rivisitato. Però ci siamo accorti che essendo avanti veramente in maniera viscerale della musica, passiamo da una parte all'altra, mentre, come avete visto, i pezzi che avevamo inviato, i nostri edit sono prevalentemente, vorremmo lasciare, di musica italiana comunque. Sì, poi ascoltiamo anche gli altri che mi piacciono molto, non sono male. No, che poi i Mattia Basala sono un gruppo che ha spaziato in vari generi, cioè negli anni 80, per dire, usavano sintetizzatori a manetta, cioè questi sono all'inizio della carriera. Sì, questo qua era l'album forse oro di Mattia Basala, uno dei primi, non vorrei dire eresie, perché sono un po' ignorante sulle date. Sì, sì. Però come, appunto, come producete la vostra musica? Scusa, no, ti sento bassissimo. Ah sì, anche noi abbiamo piccoli problemi di volumi, no? Voglio dire, come producete i vostri remix, i vostri edit, cioè cosa usate? Ma sostanzialmente sono dischi che ci passano tra le mani, nel senso, Oro di Mattia Basala era un disco che era una collezione di un nostro zio, di gente a caso, di cose trovate a caso, che riascoltandole così la domenica pomeriggio, dopo 5-6 birrette, rimettere in mano qualche cosa per rendere un po' più sì, perché poi la cumbia è un genere, insieme al sudamericano, se non sbaglio. Sì, tra l'altro è stato non tantissimo adesso in Italia, con, non so se conosciuti, tre allegri ragazzi. Sì, morti, sì, sì, Jovanotti, Jovanotti aveva fatto una cosa di cumbia, giusto? Sì, ecco. sta veramente tornando in auge, se così si può la dire. Cumbia. Cioè, noi siamo amanti da tempi in memory, però fa piacere che tu stia tornando. Bene, bene. Ma un'altra domanda prima di ascoltare un altro brano. Voi siete di dove, quindi? Visto che il nome è I Bellissimi Dischi di Ornavasso. Noi siamo di Ornavasso. Oh, perfetto. Provincia? Il bosco della Val d'Orcia. Conosciamo bene, tra l'altro, noi. Bella Ornavasso. Sì, sì, sì. Nella zona, sì. Diciamo che noi andiamo più sulla zona di Domodossola, però Ornavasso è abbastanza. Ci passiamo. Non ci fermo mai da Ornavasso, perché sono anche io Domodossola. Secondo me dovreste passare qualche volta a trovarci, perché è un paese ricco di, che può dare tante emozioni. Guarda, ho visto anche un po' di date, ma magari ne parliamo dopo il prossimo brano, che volevo capire anche, certo, i prossimi progetti futuri. Allora, aspetta, adesso ho un dubbio, perché il file era scritto AYX, però sinceramente non so che cosa sia il brano. Voi ve lo ricordate per caso? No, il brano è proprio quello, AYX. Ah, ok. Allora andiamo ad ascoltarlo. Thank you. Negli anni 79, dai. Esatto. Questo era un brano. Allora, abbiamo visto, abbiamo un po' curiosato, da dire la verità, perché io non lo sapevo di chi era. Era di, quindi Fit Gloria Nuti, cioè la cantante Gloria Nuti. Esatto. Ed è un brano del Festival di Sanremo. Come quello prima. No, non è un brano del Festival di Sanremo, ma lei ha partecipato poi a Sanremo. Ecco. Sì, perché nel video che metti su Google ti è uscito quello. Sì, infatti. No, non è un brano. Sì, beh, non è una canzone. Scusa, ho un lato di brutto. Non è un disco da Festival di Sanremo. Però è veramente un pezzo, secondo me. È bellissimo, è bellissimo. Meraviglioso, importante per la nostra crescita. Ma quindi, toglietemi la curiosità, questa è musica che suonate, quindi? È la musica che suonate? Noi prevalentemente, quando facciamo le nostre serate, intendiamo un po' alla disco, anche se diciamo che, come dicevamo prima, passiamo veramente in tantissimi generi, ma ultimamente la disco ci piace proprio riproporla alle nuove generazioni, diciamo, chi viene a sentirci soprattutto. Adesso si chiama New Disco, in due parole. Beh, ma adesso New Disco, ci sono New Guinea, ci sono un sacco di nu. Però sì, la disco veramente di una volta, secondo me, ha una marcia in più, perché è suonata. Esatto, bravissimo. Lo snodo cruciale, secondo noi, è questo, cioè ci sono delle cose fantastiche che riescono a fare i musicisti di quel tempo, che oggi non sono così riproducibili sul computer come spesso e volentieri invece sono nati dai musicisti di oggi. E poi soprattutto voi avete trovato praticamente tutti i dischi vinili, io vedo tutti roba originale, cioè quello è anche una cosa, cioè proprio anche tutto un lavoro di ricerca che c'è dietro, che non è male. Sì, esatto. Tra l'altro avevo visto la foto di uno di voi due col disco, quello Tenax, quello è bellissimo. Magico. Ma vi andate sul facile. Vabbè, ci vuole il classicone, ci vuole, dai. Magico, Ruggeri, tra l'altro, un sì. Muso fin da quando eravamo sì, perché la canzone è stata scritta da Ruggeri, ma la cantante era, mannaggia, come si chiama lei? Yanez. Diana Ernst, sì. Tra l'altro sì. Lei fa ancora dei live tuttora in un club veramente underground, la chiamano ancora nel 2018 a esibirsi, è fatto quello penso per due poi. Sì, perché poi lei ha cantato anche forse lì il Louvre, lei? Sì, lei, sempre di Enrico Ruggeri, sì. Sì, che poi anche lì... Sì, comunque si parla sempre di roba underground. Beh, non è male, non è affatto male. Dell'italiano. Sì, bello. È in italiano. In italiano, giusto. Cosa, è effettivamente una cosa molto da tener conto. Sì, anche perché non l'ascoltano più tanto la musica italiana. Non... Beh. Questa è una roba che... A me specialmente fa imbestialire, perché noi siamo italiani e ci associamo da sempre alla musica inglese, americana, come se fosse oro colato, quando invece noi abbiamo dei signori... Oltre che musicisti, anche che scrivono dei testi davvero da panico. Vero. Quando scopro quelle perle che sono state scritte negli anni 70, con delle tematiche che veramente potremmo riabbracciare oggi senza problemi. Vero. No, anch'io ascolto prevalentemente musica italiana, quindi... sì, come i vecchi mestieri, il calzolaio, iniziamo a essere vecchi dentro. Che età avete, ragazzi? Che età avete? Io sto a Trano, chiamo Giulio Cesare. Ok. No, io sono Cesare, lui è Giulio. Dai, infatti sono la battuta. Nati, io rispettivamente nati il 27 dicembre 87, giù è nato il 28 dicembre 87. Ma siete giovani, siete giovani. Ma non hanno in più di me. Allora non sono giovani. Siete giovani. No, ma, ragazzi, oggi ho sentito che hanno detto a Roma che si è giovani fino a 75 anni. L'anzianità inizia a 75 anni. Dunque avete ancora di strada. Vabbè, però voi, cioè, il vostro comunque, la vostra ricerca spazia comunque un certo genere funk, disco, oppure anche altri generi? Noi siamo aperti veramente all over the world. Se poi avete il piacere di passare a trovarci qua a Navasso, vi faremo vedere la nostra piccola collezione, ma ricca di tanti generi. Ottimo. Dall'Africa fino a Fela Kuti, cioè, passando per l'Africa, Bruno Lauzi. Sì. No, perché appunto, cioè, se uno ascolta negli anni 70 andava la Space Disco, che era questo genere che poi con la Space non c'entrava niente, e si mischiavano tutti i generi, ecco, quello che fate voi anche adesso a distanza di 40 anni. Non so se sapevate. Scusa, avevo sentito veramente basso l'ultima parte. Ah no, volevo dire che già negli anni 70, fine anni 70, si faceva questa Space Disco, che è un miscuglio di tanti generi, no? O afro disco. Sì. Soprattutto verso la fine. Sì, verso la fine. Negli anni 70, introducendo le cose un po' più sintetiche, più analogiche, veramente si facevano le cose ultra contaminate di tutte e di più. Dovevate nascere 40 anni fa, allora. Scusa? Dovevate nascere 40 anni fa. Cioè... probabilmente però non avremmo avuto lo stesso piacere a riproporre quelle cose. Praticamente tante di quelle cose che facevano di tempo erano considerate forse una barra spazzatura. Sì, è vero, anche perché questo. Veramente c'è un quantitativo di quella roba pazzesca, sconosciuta. Perché ne facevano tantissimo, ma nessuno se la cagava. Bisogna scoprire quei diamanti, se vogliamo chiamare così. Adesso sì. È anche super divertente, quindi va bene essere nati negli anni 80, ma non averlo vissuto in pieno. Va bene, io direi, ascoltiamoci l'ultimo brano che ci avete mandato, poi ci date un po' di vostri contatti, prossime date o quant'altro. Non l'ho detto apposta, i vostri contatti, perché il prossimo brano è Contatto, giusto? ma è un DJ, navigato, Domenico. Andiamo ad ascoltarcelo subito. Negra dell'oscuro ballerà. Beh, Tony, ti vedo molto contento. Sì, no, beh, mi piace. Quindi dobbiamo andare a vedere una loro serata, giusto? Assolutamente sì. Per forza, per forza. Ci siete? Non vi sento più. Ah, ok. No, dicevamo, dobbiamo venire per forza a sentirvi suonare, perché la musica ci piace veramente tanto. Dove vi possiamo sentire, quindi, prossimamente? Prossimamente, diciamo che Giulio, come vogliamo dire. Non è che siamo, noi proponiamo, diciamo, veramente poco, nel senso che a parte d'estate qua c'è il lago, c'è la montagna, si possono fare cose fuori molto belle, interessanti. Sostanzialmente noi mettiamo i dischi un po' in locali, non si può dire, in della No. Perché sono pochissime. Vabbè, ma non ci vedo nulla di particolare, non ti preoccupare, cioè non vi preoccupate. Noi suoniamo, abbiamo il piacere di mettere dei dischi il 21 di dicembre, sì? Al Paraonda. Sì? Faremo un online vlog, come si dice. Quella dall'aperitivo dalle 19 fino a quando non ci piace, andiamo là, lasciano l'acqua da sopra, le cose che succedono quando facciamo questa cosa. Ma voi suonate da lucidi? Scusa? Suonate da lucidi, in senso che bevete solo acqua. Suoniamo da lucidi, noi ci presentiamo lucidi. Seguiamo l'andamento della serata. Perché purtroppo siamo sponsorizzati, purtroppo, per fortuna, siamo sponsorizzati da un'azienda vitivinicola in Montepulciano. Vini organici, natural wine, vabbè così. Fantastico, allora. Buscare questo nettare durante i nostri giorni, per cui alle 11. Sì, devi andare avanti fino alle 11 con il famoso nettare, no, dura. Se possiamo spezzare una lancia a favore del nostro problema un po' con i vini liquorosi, i vini aromatizzati, suoniamo anche, adesso sta ancora a decidere la data, fra il 28 e il 27 di dicembre, a sì? Dei nostri compleanni, esatto, auguri. Una, diciamo una serata all'insegna del vermouth, sempre al Baraonda di Ornavasso. Secondo me è una serata molto interessante perché c'è una nostra amica che propone dei vermouth, noi portiamo un giradischi e portiamo una parte della nostra, tra virgolette, collezione, e chi vuole può venire a proporre un disco e se lo si ascolta tutti assieme si deve dare un ottimo vermouth al caldo. Attenzione, il vermouth è tipo il martini, giusto? Se non sbaglio, cioè Tipo. Diciamo proprio preso alla larga. Sì, beh. Perché... diciamo che è molto commerciale. Come tutte le cose c'è una nicchia, e quella nicchia dei vermutistici. I vermutistici. Il è molto commerciale. Va bene. Noi non siamo per il commerciale, ecco, diciamo la cosa. Però comunque se avete piacere di assaggiare del buon vermouth e soprattutto assaggiare dell'ottima musica. giusto. Bella l'idea, mi piace l'idea del assaggiare ottima musica, lega la cosa del vino con la questione dei dischi della musica. Tra l'altro noi avevamo un jingle da dedicarvi, che è questo, vado a far partire. La Madonna! Perché avevo visto che avevate messo una locandina dove c'era proprio Pozzetto che indicava, diciamo, i vostri dischi, ecco, mettiamola così. Esatto, no, sì, è piaciuta tantissimo. Tantissimo. Mia madre è andata al supermercato e mi fa, però ragazzi, con la Madonna non si fa. Vabbè, dai, era Pozzetto, dai, non è che dice... Però la Madonna non si fa. Era un disco... La Madonna! Ecco, vabbè. Ecco, adesso siamo. Adesso arriva anche mia mamma e me lo dice: oh, ma basta, no, arriva la radio. Arriva il Vaticano. addirittura. Vabbè, i vostri contatti invece dove vi possiamo trovare su internet, nel mondo dell'internet? Beh, noi siamo su Facebook con appunto i bellissimi dischi di Ornavasso. Sì. E vabbè, siamo anche su Instagram con anche lì bellissimi dischi di Ornavasso. Siamo su SoundCloud con i bellissimi dischi di Ornavasso. Tra l'altro su SoundCloud saremo anche su Bandcamp forse. Uy, bella. Se vogliamo un'offerta libera, per capire come va. però in teoria questi sono, se no i contatti, se venite a Ornavasso in qualsiasi bar, sì? Chiedete dei bellissimi dischi di Ornavasso e sicuramente okay. Me lo fanno dire, e in più riceverete un adesivo in omaggio, perché i nostri dischi sono bellissimi. Ok, va bene, noi vi ringraziamo. Aspetta, no, c'è l'ultima cosa che volevo chiedere, vai. No, io comunque voglio farla questa trasferta di Wolf Trips a Ornavasso. Certo. Non sarebbe male, ma mi sa che la facciamo, se non è a breve, sarà brevissimo, mettiamola così. Certo, noi vi seguiamo sui vari social quando sarà un evento, vediamo di combinare. Ci ormai ci siamo scambiati, no? Proprio. Sì, va bene. Noi veniamo con le valigie vuote e ci portiamo via i dischi. O il vino, vediamo un po'. Io sarei più per il vino. Io punto al vino, anche io punto. Ma raccontate dei dischi. Va bene, noi vi salutiamo e vi ringraziamo di essere stati con noi. Ciao. Grazie a te, ragazzi. Ciao. Wall Street. Sono reggeggianti. Sì, non sapevo quando entrare perché mi piaceva troppo questo pezzo. Loro sono i Sardinia Bass Legalize, che tra l'altro avremo ospite anche tra qualche puntata, senza che morite tutti quanti di là. E a me piacciono molto. È un collettivo di DJ. L'etichetta è White Bump e vengono dalla Sardegna. Si sentiva un po' nell'accento, nella musica. Sì, ma non è la musica, perché la musica no, la musica era spettacolare. Sarda, tipica sarda. No, la parte vocale. Era un po', no, dai, non è proprio io. No. Male che hanno, poi è normale che ti ricorda. la Giamaica, anzi la Sardegna, beati, non è niente assolutamente da parlare. Qualcuno ha alzato la mano, ok, puoi intervenire. Sì. Io ho un problema, sì. Non c'è Katia ma c'è Deborah stasera. Qualcuno deve farle le foto, poi bisognerebbe anche mandarle a Katia che poi dopo ripubblica nel webs. Siccome stavo usando il cellulare che poi andrà in pensione, sì, saranno foto ricordo. Vabbè, il gelo. Infatti, guarda, poi in ritardo. Ecco, in ritardo, ma era giustissimo, effettivamente. I ragazzi di prima mi sono dimenticato. Sì. Volevo chiedergli che gruppi possono piacere adesso, cioè qual è l'artista che si avvicina al loro genere musicale. Sì, sì. Beh, potremmo Mark Ronson. In realtà io li avevo invitati a venire qua in studio, però effettivamente non è proprio vicinissimo, però non mi sarebbe dispiaciuto averli, magari fargli fare due una serata che magari si avvicinano. Sì, sì, sì, ma magari andiamo a fare noi un'esterna, magari facciamo una video intervista lì sul posto. Sì, non ci ubriachiamo male. Prima. No, prima facciamo una video intervista e poi dopo continuiamo. Possiamo fare la diretta Facebook da lì. Bella idea, bella bravissimo idea. Mi piace, ma ovviamente. Ma la musica oggi deve prendere sopravvento e quindi andiamo ad ascoltare questo brano con In Vitro, Transitional Dimension. Giusto, parlavamo di bere. In Vitro. Stasera sei in forma. Hai visto? andiamo un po' sulla elettronica stile Chemical Brothers, secondo me. Sei partito presto stasera con questo. No, no, no, ma adesso ritorniamo su ancora il genere solo. Oggi è un po', facciamo tipo roller coaster. Roller coaster. E mi schilla? No. No, non che non mi dispiace il brano, però non c'entra niente, nel senso. Non so neanche di che quello sta parlando. No, è un brano, è un album nuovo di. Finitela di fare i finti giovani. No, vabbè, io ascolto. Io... No, no, è giusto ascoltare. Guarda che qua l'unico vecchio sei tu, eh. Sì, ma io. Vi volevo incuriosire su un evento che ho letto in giro, che è praticamente, si chiama evento Percorso Silenzio, questa me la sono segnata, ed è una cosa spettacolare perché si tiene in un ex manicomio. L'hai già visto? No. È un evento, allora si tiene a Villa Ambrogina, che è una villa dei dalle parti di Montelupo Fiorentino. Ed è praticamente, cosa succede? Si chiama un evento di Sound Walk, quindi tu cammini in questa villa abbandonata, che era tempo fa, ma fino forse nel 2017, era un manicomio e un carcere. Praticamente tu cammini nel silenzio, non puoi farne, devi ascoltare i rumori della struttura, i rumori della natura che ci sono intorno, i rumori che sono le porte che scricchiolano, e puoi fare questa visita guidata in questa villa. In realtà la villa è molto bella, devo dire la verità. La visita guidata parla? La visita guidata no, non parla, assolutamente non parla. Fa parte del tempo, si chiama Tempo Reale Festival, è un festival del 2018 che hanno ideato. Dimmi tutto. Quindi se devi urlare, Tony... urla in silenzio. Se devi tossire, il problema è quello. Il problema grosso è quello, immagino. Ma è se uno fa qualcos'altro. Tony, guarda che tu sei numero uno. Oh, che botta. Comunque, no, la villa in realtà, dimmi. E quando? Allora, c'è stata. Ci sono praticamente delle visite guidate. No, aspetta, sono delle visite guidate periodiche. È stata fatta già nel 2018, nel periodo estivo. Penso che venga riproposta poi nel 2019, sempre periodo primavera. E perché non ci siamo andati nel 2018? Perché l'ho scoperto l'altro giorno. Perché non ha sentito l'ho scoperto l'altro giorno. Non ha sentito la notizia. Ho scoperto l'altro giorno la notizia e te l'ho voluta riportare. Vabbè, comunque ci prenoteremo per 2019. Però usano molto gli ex manicomi per fare particolari cose. Ma questa location ti consiglio anche di andare a vederla anche sì, su internet, Google. Qualche foto. In realtà non è che sia di tipo quelle che ti immagini da manicomio, È una villa dei Medici, una delle tante ville dei Medici. Cioè, è stata, no, ma è stata, ha avuto delle vicissitudini enormi, guarda. C'è anche la pagina su Wikipedia che non finisce più. Una villa maledetta più o meno. No, neanche. Dimmi. Io a proposito di sempre queste cose un po'. Voglio andare a Consonno, ragazzi. Ma ascolta, dovremmo fare. Poi faremo magari una diretta Wolf Trips a Consonno. Non sarebbe una brutta idea. Che sarebbe? Consonno è una città fantasma. Forse non l'ho sentito. Dalle parti di Lecco. Mi sa che potremmo aprire una nuova rubrica. No, io mi ricordo di un mio amico che parla di questa. Poi ve lo dico, dai. Magari nello stesso posto, comunque... Comunque. Ricordiamo il numero dove ci possono mandare WhatsApp. Silenziosi? Sì, camminando nel silenzio. 340 136 17. Il numero è cambiato, quindi segnatevelo: 340 100 3617. Perfetto. Andiamo a ascoltare il prossimo brano, che è di Cali, che non è Gali, è solita storia. E il brano si chiama Stuck. L'ho detto giusto? Stuck. Stuck. Ed è della Phono Cake, un'etichetta, un'altra di quelle che abbiamo ascoltato mille volte. Sarà in alto nella nostra super classifica. Just for a while. Thank you. Questo era un brano della Omeak Records, che tra l'altro volevo salutare Isaac Bloomfield, spero di dirglielo, di dirlo hi, giusto. Isaac. Che ci scrive sempre e mi ha mandato anche lui proprio questo brano. Bellissimo, un brano tra l'altro è uscito da poco, perché è uscito il 7 ottobre del 2018, quindi anche abbastanza recente. Recentissimo. E l'etichetta, ripete, la Omeak, che ne abbiamo parlato già settimana scorsa, che produce per lo più musica house, anzi nel claim dell'etichetta aspetta, ritorna indietro, cos'è il claim? Il motto, il motto dell'etichetta ha praticamente come idea quella di creare, diciamo, diffondere un nuovo genere di musica house. Poi vabbè, in realtà è difficile, diciamo, è musica che abbiamo già, adesso vabbè, noi siamo un po' più navigati, ecco, come abbiamo detto prima, musica abbiamo già, genere abbiamo già ascoltato, però la qualità della produzione non è si male, sente, quindi si sente bene, molto, quindi ci sta, non mi dispiace come brano. E quindi dobbiamo iniziare un può incrementare il beat, caro Tony, che sembra un gioco un po' di parole, però effettivamente no. Così è. Il prossimo brano è di della Monophonicos, un'altra etichetta net label spagnola, penso, adesso vado a controllare che non vorrei dire grandi fregnacce, e l'artista si chiama Mala, che forse l'avevamo già passato una volta, avuto modo di parlare di questo artista. Ah, ma questa canzone forse già la conosco. La canzone si chiama Trapped. Sì, no, sì. Però non credo che c'entri molto. No, mi sono confuso con una cosa che magari parleremo dopo. Va bene, va di quello bene. Che dovrei fare già dall'inizio dell'anno. Infatti, visto che adesso il jingle è anche pronto. Ho detto una cosa. Che cavolo. Andiamo a ascoltarlo. Va bene, quindi Tony mi muove una critica. Eh no, io sono partito così in quarta. No, ma anche il tag che è house. No, il tag house proprio non ci sta su sto brano. Qua abbiamo proprio sbagliato alla grande. Vabbè, però sì, ci sta. L'archivio, praticamente sto creando un archivio di tutta la musica che passiamo, che abbiamo passato. Dimmi. Praticamente. Una volta l'ho detto. E l'archivio però viene di volta in volta aggiornato nei vari tag, un po' un lavoro di precisione. Beh, questa si può mettere come base. Questa sì, effettivamente per la ripetitività del brano è più quasi, sembra è, quasi una è base. Trap sembra vagamente, no? Un po' trap. Sì, un po' trap a Tony. Vabbè. Ha fatto la battuta. Iniziamo nella mezz'ora finale. No. Dimmi tutto. Volevo ascoltare il jingle di Diego. No, il jingle di Diego è ancora sul mio cellulare e non può essere ascoltato. Però invito Diego poi dopo a sentirci, perché devo chiedergli due informazioni aggiuntive per quel jingle. Diego è la nostra anima più cattiva in senso musicale. Sì, solo in senso musicale, però, dai. Hard rock, metal. Che fa il programma al Ciofetti. Al giovedì. Che non mi ricordo, è Estremo Ego. Estremo ego. Si può ascoltare anche in podcast, così facciamo un po' di pubblicità. Come il nostro programma, tra l'altro, però. Che si può ascoltare in podcast su Spotify. Sì, il nostro. iTunes e via dicendo. Sì, ovunque, ovunque. No, ditemi. Siamo. Ah, siamo. Sì, dai, io direi che ci lanciamo la pubblicità e poi andiamo ad ascoltare un brano. Quasi quasi lo preannuncio, una cosa che non si fa mai. Che però è della Netlabel MP3 Dead. Dead scritto come morte. Cioè, l'MP3 è morta. Sì. Wolf Trips. Un viaggio alla ricerca della musica del futuro. Questo è uno dei miei brani preferiti, devo dirti la verità. A me piace molto, non so, magari a te è un po' troppo ripetitivo, un po', però. Allora, il brano è di Captive Portal ed è estratto dal suo album che si chiama Toy Sounds Volume 2. Volume 1. Volume 1, sì, no, stavo pensando perché lui utilizza degli strumenti, quindi erano più strumenti, per fare musica. Toy Sounds sono proprio i suoi giocattoli del suono. E il brano in questione è proprio Me As, quindi sarà come me. Ok, vedi che ogni tanto ci prendiamo, dai. Stavo dicendo che l'etichetta si chiamava MP3 Dead, quindi, cioè MP3 Morti, quindi potrebbe voler dire non so qualcosa. Se magari vorrà dire per il fatto che il formato dovrebbe. Magari sì. Sì, ma per me l'MP3 non morirà mai, perché come il vinile, come il CD, come queste cose qua. Adesso sono tornate in moda anche le musicassette. Cioè. Caspita, hai detto una cosa davvero bella. Io mi sono dimenticato di dire, me l'ho preparato anche una cosa. Allora, parliamo la settimana prossima. No, aspetta. Hai detto delle cassette. Sì. Un artista che abbiamo passato questa sera, che si chiamava Sole, quello della compilation Nuclear Winter 3. Sì. distribuisce il suo brano su Bandcamp su cassetta. Ah. Sì, a parte vabbè, puoi comunque effettivamente fare il download, lo streaming da Bandcamp, però dopo ti faccio vedere anche la pagina. Una cassetta di una, cioè, di una sola traccia? No, è la cassetta dell'album. Sono, adesso non mi ricordo, adesso vado sì, non è la compilation, ok. Però la compilation viene distribuita su cassetta. Sì, sì, no. Infatti mi hai detto questa cosa della cassetta, mi è venuto in mente. Ma sotto abbiamo lo zecchino d'oro? No, è la base quella che piaceva tanto al nostro amico Daniele, senti. Un po' così. Ciao sì. Manga, se ci ascolta. Ciao Manga. Salutiamo anche Daniele che... Sì, Daniele che... Come sta andando il suo programma? Sta andando bene, un po' in crisi ogni tanto, mi chiama ogni 3x2, poverino. È novello. Però credo che stia andando bene, tra l'altro anche lui ha un podcast, tanto per cambiare. Ricordiamo il nome del programma. Il programma si chiama Nerd Corner. Ok. E parla di Ambaradan Nerd. Ciao Dani, torna a trovarci. Sì, infatti. Sì, infatti ti aspettiamo sempre tanto. Anche per le lezioni di inglese. Soprattutto per quello. Ok. E intanto io vedo qua il nostro buon Fabio che sta producendo jingle che manculi cani, direi. Perché veramente no? Sta facendo jingle in continuazione. Sì, però, qualsiasi cosa che audio, qualsiasi cosa lui edita, taglia. Sì, è un jingle man, io l'ho sempre detto. E io ho proposto in fuori onda che magari anche lui da settimana prossima, sempre nell'ambito labels, Nate Labels, propone qualche pezzo su, cioè, tra l'altro guarda, dato che è già partito il brano, sì, in questione, che è di Analog Audio Association Water Based Electrolyte, volevo preannunciare che probabilmente faremo però guarda che è giusto la regina non so perché è ancora viva, però guarda che è giusto Water Based Electrolyte Based ho detto giusto? No, ma io sono inglese tedesco. No, perché mi viene in mente quel comico, vabbè, quello che faceva un po' il fascistone. Poi mi ricorderò il nome. Vabbè, c'è l'Alzheimer stasera. No, ma è talmente. E no, stavo dicendo che intanto che sta andando sempre sotto questo brano, che non lo ripeto più, se volete lo ripetete voi, io ve lo andate a leggere. No, perché sembra che il suono sembra quello che hai detto te. Stavo annunciando che praticamente faremo un DJ set all'interno di un altro programma. Quindi poi dopo ne parleremo bene. Siamo nelle mani del destino noi. Infatti. Bene, andiamo ad ascoltare questo brano che, se vuoi Tony, puoi ripeterlo come si chiama. Allora Water Based Electrolytes di Analog Audio Association. By Analog Audio Association. Eh sì, caro Tony. Allora, non ripeto più come si chiama il titolo del brano, però lui è Analog Audio Association. Ok. Che non so come caspita l'ho detto, però vabbè. E l'etichetta è Sleep City e vengono tutti allegramente dalla Germania, quindi diciamo che Kraftwerk, secondo me, hanno un po' ispirato. Hanno un po' ispirato il tutto. Sì, perché poi anche loro hanno iniziato neanche con l'elettronica, Kraftwerk, che era un gruppo rock. Un gruppo rock, sì, sì. Krautrock. E ti avevo mandato anche il nome originario. È vero, che gruppo. Io non conoscevo. Ecco. E niente, va. Comunque siamo synthwave, questo è il sì, genere. Sì, oggi siamo, tra l'altro, stiamo facendo un roller coaster, che stiamo passando da un genere all'altro, saliamo e scendiamo. Che dice montagne russe, lui dice roller coaster. Perché io so parlare inglese. Non coaster. Sarebbe roller coaster, però lui dice roller coaster. No, però. In generale. Scusa, no, aspetta, però io mi ricordo una canzone, sempre anni 70, che diceva roller coaster. Life is a roller coaster. Io me ne vado. Ciao. Io era anche vado. Ora. No, c'era il cantante, come si chiamava quello dei Boys? Ronan Keating. Giacomo, gli piace. E la canzone era Roller Coaster. Vabbè, adesso ti faccio risentire il pezzo, poi dopo scopriremo qual è la giusta pronuncia di questa parola. Io direi che passiamo a un'etichetta che a noi piace molto, perché prova a introdurla, Fabio, scusami. Vediamo se. Ecco, sono preparata prima. Immagino chi sarà, ma che etichetta che settimana scorsa è mancata. Bravo. Quest'anno, questa volta è ritornata. È la famosa etichetta Brook, che viene da Dresda. Ormai siamo amici con loro, perché li passiamo ogni settimana. Ci siamo sposati con questa etichetta, giusto per fare il gioco di adesso parole. Adesso ce ne andiamo tutti noi. Sì. E, no, però l'artista si chiama Gabriel Vittel. Non rifacciamo le solite battute. E il brano è uno di quelli, è un altro di quei brani che mi piace molto. E probabilmente sarà un altro dei brani che suono nel nostro prossimo DJ set. Per me piace anche, forse anche il gruppo, ai due ragazzi che abbiamo intervistato prima. Cosa il genere, dici? Non lo so. Allora, lui fa musica house, è un giovane di 19 anni. Ho letto la base. Che si chiama Jazz Addict Intro. Sì, infatti la base è questa. By Cosimo Folks. Invece il brano è di Gabriel Vittel con Ankno Places. Magari gli piace un po' di Vittel tornato. Come si dice? Ankno Places. He's making a need for the man. We'll be right back. me piace come genere, un genere diciamo house, tech house, con questa voce un po' malinconica, però tutto sommato ha un bel tiro. Mi dici il un bel tiro? Allora sì, aspetta, ci siamo. Gabriel Vittel con Anno Places. Sì, promosso? Sì. Perché questa qua sarà la puntata ricordata per gli strafalcioni di inglese che ho fatto io. Me ne assumo la totale responsabilità di questa cosa. Quindi vabbè, ok. È così, non ci possiamo fare niente. Cioè, vedo che il sonno inizia a imperversare, sì, nei vostri occhi. Ma anche la fame. E anche il giorno che noi facciamo il podcast, come dire, il programma. Il giorno forse più pesante della settimana. Sì, è vero. Anche l'orario comincia. Ah, diciamo che noi partiamo alle 8, poi alle 10, quando arriva l'ultima mezz'ora, è sempre quella un po' più tosta. Però vediamo se riusciamo a riprenderci un po' con il prossimo brano che volevo proporvi, che è dell'etichetta Soul Action. E quasi quasi te lo lascio dire a te, giusto per evitare di fare. Non è difficile, però. Effettivamente potrei anche lanciarmi io. Vabbè, il titolo è Word. Sì, sì. Ok, questo è facile. Il nome è Harrison Black Oldman. Black Oldman, sì. Black Oldman. Oh, yes. Secondo me sei stato promosso come lanciatore di dischi ufficiale. Sì, magari. Quindi direi che potrei lavorare alla BBC. Ti metti fuori dalla. No, come proprio lanciatore di dischi ufficiale, sì, perché. Ma nel senso che li prende proprio, li lancia? Sì, da fuori dalla finestra. Fisicamente, no? Proprio. Sì, invece che fare le nuove uscite, le lancia proprio dalla finestra. Magari vado a lavorare con gli altri due amici che loro quei vini. Facciamo un trio. Sì, infatti. Con questo brano ci siamo spostati negli Stati Uniti, più precisamente a Los Angeles siamo andati. Questo brano saltellante, potremmo definirlo così questo brano. Un brano cavalletta. Sì, continuiamo a saltellare, pause, continue. Un brano particolare. Non mi sembra un pezzo molto americano, cioè non mi dà l'idea di Los Angeles. È vero. Molto più newyorkese, East Coast. È vero. Il pezzo non era male. No, ma mi piace. Tra l'altro l'artista è un... non è che ha fatto molta roba, perlomeno da quello che conosco. Come come net label, come sì, come, pro, no, come produzione in generale, perché ha prodotto questo brano, questa EP, che è Opera EP del 2012, poi si sono perse un po' le tracce, però magari ha cambiato, perché tanti artisti effettivamente cambiano un po' il nome, poi si perdono, si confluiscono in altri progetti, quindi non è facile tenerne traccia. Sì, però già qua abbiamo parlato con gente che abbiamo intervistato, che si parte con un collettivo che sono, ti ricordi? Ah sì, che poi si perdono nella... Sì, sì. Tra l'altro ho sentito tempo fa uno dei nostri vecchi ospiti, che si chiamava, non mi viene in mente il nome, mi aveva detto praticamente che ha fatto un nuovo progetto con un nuovo nome, quindi cioè veramente è difficilissimo tenerli. Sono stimoli che aiutano, magari in quel momento non ti piace più far niente, perché vedi che non ci sono riscontri, perché nel mondo comunque è un mondo che è difficile uscire fuori dalle net label, però sì, cambiando sì. nome. Invece, rimanendo sul discorso delle net label, ho letto anche la comunicazione di oggi che il sito principale, diciamo, di diffusione delle net label, che è la Free Music Archive, era dato archive. Per chiuso dal 1 novembre, poi è stato rimandato a metà novembre, poi è stato rimandato al 1 dicembre, adesso in realtà rimane aperto. Qui c'è una che ha chiuso adesso. Sì, e tra l'altro mi hanno mandato dei messaggi che hai lanciato le cuffie dopo una battuta. No, non si fa. Non si lanciano le cuffie. Sì. I dischi sì, però. Questa è bella, questa mi piace. Vabbè, l'ora è davvero, si sta facendo veramente tardi. Si può. Direi che ci spostiamo sulla Digital Diamonds e il prossimo... Digital Diamonds. Scusa, mi è scritto così, Digital Diamonds. Diamonds. Ok, e il prossimo brano lo leggi tu ed è questo, che sta già andando sotto. Lampe. Ok. Crystal Cave. Ok. Yeah. Thank you. I viaggi del lupo. E siamo arrivati in fondo anche oggi, dai. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo tirato le cuoia, come si potrebbe dire. Aspetta che qualcuno vuole intervenire. Di qualcosa, ma no, puoi dirlo anche senza cuffie, cuffie. Non è che con le io cuffie. Io voglio tirare il collo a qualcun altro invece. Va bene, va bene. Ce l'abbiamo qua di fianco, immagino qualcun altro, giusto? Ma come immagini bene? Ma come immagini bene? Cos'è? Beh, immagini male perché l'immagine non è che Va bene, io direi che facciamo i saluti per oggi. Allora, iniziamo a salutare i nostri ospiti di stasera che sono stati i bellissimi. Aspetta, come si chiamavano? I bellissimi. No, i bellissimi dischi di Ornavasso è il nome del loro progetto, gruppo. Beh, anche un duo comico, Giulio Cesare. Giulio e Cesare. Ciao Giulio, ciao Giulio Cesare. E Cesare, bravissimo. Che sicuramente andremo a trovare presto perché hanno messo veramente della musica interessantissima. Vero, mi piaceva molto. E poi salutiamo Katia che ci ha guardato, barra ascoltato, barra taggato, barra non so più. Barra. Poi salutiamo la Deborah che si sta mangiando le unghie. No, e questo è l'effetto della fame. Saluto anche il mio orologio che mi ha segnato. Ciao l'orologio. Ciao l'orologio. La precisione. Salutiamo Fabio. Ciao Fabio. Ciao. Ecco. E vabbè, salutiamoci noi tutti. Ci ritroviamo settimana prossima per una nuova puntata. Abbiamo come ospite settimana prossima, abbiamo, guardo sulla mia agendina, Sardinia Bass Legalize. Che mi ha ascoltato oggi un brano. Ascolteremo sicuramente qualche brano nuovo che hanno prodotto. Chi ci vuole ascoltare in podcast, sulla pagina di Wolf Trips troverà tutti i contatti. Trova la pagina Facebook di Wolf Trips o il sito internet anche di Wolf Trips. Okay, se no basta cercare Wolf Trips su Google. Siamo gli unici al mondo. Dai. Ecco, sì, no, come con questo nome ci siamo solo noi. Dai. Va bene, io direi che andiamo a mangiare, giusto? Tu mangia! Ma che è anche il tuo maritino che gli chiede queste cose, eh? Non è che... Cioè... No, io chiedo il divorzio. Andiamo Se c'è un buon avvocato, mi scriva al 340-136-17, così ci mettiamo d'accordo per questa separazione. Va bene, spero di no, dai. Va bene. Come buono lei. Ecco, infatti. Io direi che ci salutiamo e ci sentiamo settimana prossima. Ciao! Ciao! Ciao! Ciao. Ciao.